si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ho avuto un problema che mi ha veramente rovinato il fine settimana. Ecco, spengo il telefonino perché oggi sono entrato di corsa, capita ogni tanto. Ho dei divani, il mio soggiorno, che hanno i piedini un po' consumati. Le basette sono in metallo e hanno un bordo vivo tagliente. La donna, per pulire con l'aspirapolvere sotto i divani, li sposta e mi ha creato praticamente, ma non è colpa sua, è colpa anche mia in parte, per le attività che facciamo sul divano, spostando i divani ha creato un solco sul parquet, un bellissimo parquet nuovo, quindi è solcato orrendamente. Due sono le operazioni da fare. Ho alzato il divano e ho visto la situazione sotto le basette del divano. Queste basette metalliche avevano dei piccoli forellini, foro da 6, in cui erano infilati dei gommini. I gommini si sono consumati, naturalmente l'operazione di spostamento sul parquet del divano ha creato dei solchi sul parquet. Quindi ho provveduto, incollando dei feltri che ho ritagliato appositamente con un taglierino, sul fondo del divano. Fanno schifo che ne esce fuori mezzo centimetro, ho ecceduto, quindi adesso dovrei col taglierino ritagliare questi feltri. Però il problema è che il solco rimasto sul parquet è bruttissimo. Cosa fare? Ho provato con della carta vetrata molto fina a togliere un parte della vernice e ridare la vernice, ho fatto ancora più schifo. Sono andato in ferramenta, mi ha dato della cera, ho messo la cera, ma la cera non può attecchire perché lì c'è una vernice plastica, metallica, non c'è... insomma, ho fatto un disastro. Questo sarebbe stato nulla. Il sifone del lavandino, che è molto bello, è un bagnettino tutto di design, è di un tipo un po' strano, sarà tutto intasato perché a forza i capelli ci si pettinano, le caccole, le cose, insomma si intasa il sifone del lavandino. Io dico, che faccio? Ci butto dentro l'idraulico liquido, ho preso questa bella cosa acida, ce l'ho buttata dentro, ha fatto quella fumata lì, ma in realtà invece di sturarmi il lavandino ha bruciato il supporto in plastica del sifone. Questo sifone non è di quelli classici di metallo, è di quelli con l'interno in plastica, sono strafighetti, belli, dovrebbe essere un bagno che magari ci cucini anche la pasta asciutta sul lavandino, però c'è il problema: se ci butti dentro l'acido si fonde il tappo del sifone dentro di plastica e quindi si fonde, e quindi è un casino fatto. Beh, questo per spiegarvi che oggi esiste una serie di attività domestiche utilissime, ma chi le fa a casa? Voi chiamate un idraulico, ma l'idraulico non è che ti viene a sturarti il lavandino semplicemente così, ti viene, ti crea tutto un problema, ti rompe le mattonelle, ti apre i tubi, insomma ti fa credere che c'è un problema formidabile all'interno del tuo bagno, perché deve giustificare, giustamente, logicamente, io porto sempre gli idraulici come esempio di lavoratore necessariamente retribuito rispetto al lavoro intellettuale che non sempre viene retribuito. Quindi arrivo alla domanda di questa mattina. Chi fa i lavori a casa vostra? Chi si occupa di appendere i quadri? Chi si occupa di usare il trapano e fare i buchi e mettere gli stop sul muro quando servono appunto delle mensole? E chi si occupa di semplicemente cambiare la guarnizione al rubinetto? Una cosa semplicissima, basta smontarlo, si mette la guarnizione, si richiude la guarnizione, non perde più il rubinetto. E farlo. E ci vuole il galletto, ci vuole la chiave, e ci vuole il teflon per poi rimettere nella ghiera il giusto livello di tenuta dell'acqua. Sono cose che se uno non le ha imparate da piccolo, non le sa fare. E oggi dove si impara a fare i lavori domestici? Una volta i nonni o le nonne o gli zii trasmettevano di generazione in generazione l'uso del bricolage, l'abuso dello strumento. In ogni casa c'era una cassetta degli attrezzi in cui c'era tenaglie, pinze, martello, seghetto, mastice, colla, stoppa per i lavandini, guarnizione di ricambio. Quando accadeva qualcosa il marito prendeva gli attrezzi e lo faceva. Molte volte c'erano anche, o ci sono ancora, delle mogli molto attrezzate. Ma oggi questi lavori non li fa più nessuno. Si fanno i grandi lavori, perde un rubinetto, si chiama l'idraulico, si scassa tutto il bagno, si rimette un rubinetto nuovo. Bisogna mettere una serie di quadri al muro, bisogna chiamare uno che te lo fa, ci sta 2 ore, c'ha la livella, c'ha addirittura il livellatore laser. Ho visto uno con una lucina che per mettermi un quadro al muro mi aveva acceso una luce e mandava un raggio laser, sembrava un puntatore per attaccare un quadro. Io ho sempre fatto a mano, così, con lo spago, con il filo a piombo, con il cordino, con attaccato un bullone, quelle cose che mi hanno insegnato da piccolo. A me da piccolo mi regalavano il traforo, uno dei primi giochi era il traforo, col seghettino e con il trapanino mi bucavo le dita cinema, faccio tanti piccoli lavoretti, quindi più o meno so far tutto, meno che mettere i gommini al divano. 800 24 00 24. Chi fa i lavoretti a casa vostra? Sembra facile accomodare un rubinetto che perde. Prima operazione per ripararlo è quella di svitare la manopola del rubinetto per poter cambiare la guarnizione. Le manopole dei rubinetti sono tenute al loro posto da un dado. Per svitare un dado ci vuole la chiave inglese. Facile. L'importante è svitare il dado. Quando il dado è svitato, allora ci si mette una mano, così, bene. Poi si leva la mano e ci si infila un tappo, ecco, bene. Adesso si tratta di cambiare la guarnizione. Come sapete, la guarnizione non è altro che una rondella di cuoio. Ora, la rondella di cuoio la si ricava da un pezzo di cuoio con un paio di forbici. Sì. Sembra facile. Anche farci un buon caffè sembra facile. Ma non basta avere del buon caffè ben macinato, dell'acqua e il fuoco. No. Ci vuole anche esperienza, cura e una buona caffettiera. La caffettiera Moka Express. Questo era un carosello del 1959, in cui c'era una trasmissione attraverso la televisione, il nuovo medium casalingo, il vero faro, il Sancta Sanctorum del salotto italiano, in cui una riproduzione sintetica di un nonno, di uno zio, di un saggio di famiglia, di un vicino attrezzato, del portiere. Il portiere di solito, la funzione vera dei portieri, era che entravano in tutte le case e sapevano far tutto. Si chiamava il portiere, sempre con dei lavori raffazzonati, perché erano degli accrocchioni tremendi, non è che il portiere avesse qualità di raffinato artigiano, ma insomma aveva la cassetta degli attrezzi, aveva il trapano, aveva i chiodi, le bullette, gli stop. Poteva fare alcuni lavori di riparazione, anche alcuni lavori di riparazione emotiva, quando andava a casa appunto dei vicini in assenza dell'uno o dell'altro membro della famiglia. Questo signore racconta una maniera arcaica di provvedere ad alcuni lavoretti di famiglia. Oggi la tecnologia del bricolage domestico è avanzatissima. Ci sono dei luoghi lussuosissimi, sono delle vere e proprie cattedrali in cui si va e c'è di tutto. Sentite, le guarnizioni ancora le faceva con degli avanzi di cuoio. È vero, io ricordo, delle vecchie cartelle o le vecchie portafogli venivano conservati, perché alla bisogna si prendeva, si ritagliava con un compasso un cerchiettino, con le forbici si ritagliava e la guarnizione si faceva di cuoio. Ma oggi sono delle guarnizioni in fibre meravigliose che resistono ai calori più eccessivi, che sigillano tutto, le trovate in tutte le dimensioni. Entrare in un negozio di bricolage significa entrare in un luogo da cui non si uscirebbe più. Vi rendete conto che per ogni operazione esiste l'attrezzo giusto, l'utensile giusto, la guarnizione giusta, la colla giusta. Mi si era rotto un portalampada di una lampada di altissimo design, costata tantissimo. Montandola ho spaccato un pezzettino di plastica. Sono andato in ferramenta, dico devo rincollarla. Lo so, ma mi è piaciuto ripassare in rassegna tutte le mie cognizioni sulle colle, a due componenti, fino ho scelto una colla bellissima. C'è un primo liquidino che bisogna spalmarlo su entrambe le parti della plastica. Poi un secondo liquidino si mette solo da una parte e si attacca. Mi ha detto il signore della ferramenta: mi raccomando, trovi 10 minuti in cui non c'è nessuno in casa, devi stare da solo e molto concentrato. Questa non è roba con cui si scherza. Beh, è una settimana che ho questa colla a casa e aspetto questo momento fatidico in cui posso spegnere il mondo per 10 minuti, metterò lì con i guanti di gomma da chirurgo e farò questa operazione che corrisponderà al disinnescare il detonatore di una bomba atomica. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Lei è un bravo minde casa. Io a casa mia si può dire che faccio di tutto. Ecco, adesso lei mi deve dire però, lei quanti anni ha? Io ho 58 anni. Più o meno, siamo della stessa generazione, lei è un pochino più grande. Esatto. Ecco, esatto. A noi però chi ci insegnava? Perché non è che siamo nati imparati, qualcuno ci ha insegnato. Ok. Allora io le faccio la premessa che sono andato via 13 anni da casa mia, cioè per lavoro. Non è che sono andato via. Beh, quindi lei ha imparato a usare le mani. Sento un eco di rimbombo. Un eco di rimbombo? Ecco, adesso sì. Forse un po' meno. Non ci faccia caso, okay. Faccia finta che è un problema suo. Vabbè, invece va bene. Nostro. Ok. Allora, quindi io mi sono fatto tutto da solo, proprio come si usa a dire, le ossa me le sono fatte da solo. Ho imparato tutto da solo, certo, qualche errore l'ho fatto agli inizi, provando. Io ho aggiunto dalla caldaia alla radio, si può dire. Cose tecniche. Quindi lei mette le mani anche nei componenti elettronici, perché oggi le caldaie sono tutte schede. C'ho degli strumenti che mi sono comprato parlando con degli amici, diciamo. No, vediamo però se riesce a ricordare le origini, perché voglio capire chi nelle nostre generazioni per la prima volta metteva in mano a un ragazzino un martello, delle tenaglie, dei chiodi, diceva comincia a fare questi lavori, perché oggi non lo fa nessuno. I miei figli, pur essendo figli tecnicamente avanzati, non sono capaci a mettere un chiodo al muro. Sì, forse perché manca della volontà. Oppure, no, guardi, io le dico... No, io non ho una risposta, la sto cercando questa mattina. Vorrei sapere, quando si è interrotta la catena di trasmissione familiare per cui il bricolage domestico non c'è stato più chi lo facesse? Penso, perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Allora, io penso che venga tutto da quando uno ha pochi soldi in tasca e si deve aggiustare qualcosa. Lei va a chiedere, non so, dal falegname, devo aggiustare una finestra, una sedia. Io ho rifatto delle sedie disfatte che ho regalato a mia figlia, che le ha lì come in esposizione, come si dice, come cimeli, monumenti, ma bellissime. E allora lei va dal falegname, dall'idraulico, come parla lei, come dice, a prendere l'esempio dell'idraulico. Ma io ho cominciato da solo, vedevo mio padre e mia madre lo facevano quando ero piccolo a casa, ho capito come si fa a smontare un rubinetto, un lavandino, un sifone. Esatto. In teoria anche un sanitario so smontare, ma poi bisogna fare il cemento e lì ho qualche problema per rimetterlo a posto. Però in teoria so come si fa, se mi ci metto lo so fare. Io fra poco vado in galleria, sono qua salendo verso Genova, non so se ci perdiamo. No, ma intanto ecco, mi spieghi esattamente, la prima volta che gli ha messo in mano un attrezzo di falegnameria, di meccanica, di bricolage, allora, ha detto usa. Falegnameria, di meccanica, io faccio l'autotrasportatore. Vabbè, con il becchiere, no? Quindi lei deve saper far tutto sul camion, chiaro? Diciamo che so individuare il guasto, ecco, che è una cosa importante. Poi ti mancano i pezzi, ti mancano magari certe chiavi, e questo è importante per aggiustare il mezzo. Io non posso chiamare un meccanico per venire a vedere. Vabbè, abbiamo capito. C'è chiara la sua situazione, la ringrazio per la testimonianza. Sta avvicinando la galleria, sento sempre più evanescente il segnale. Prosegua per la sua luminosa strada di riparatore. Sentiamo Viviana. Pronto, buongiorno. Ecco, lei, sfatiamo il mito che le donne non sappiano mettere le mani sugli attrezzi. Appunto, infatti io ti tengo a portare la mia esperienza, e io volevo dire che per me il maestro è stato mio papà. Guardarlo lavorare quando era piccolo, che odorava tutto di nafta, di olio, di grasso, faceva il meccanico e l'autista in Eritrea, e vederlo arrangiare, recuperare le cose dai ferrovecchi e costruire con i pezzi di recupero. Lei cosa sa fare, Viviana? Lei cosa sa fare? Facciamo un esempio. Io di idraulica, a casa sua, no, cosa sa fare? L'idraulica è proprio quello. Nemmeno che una guarnizione di un rubinetto? No, so cambiare le guarnizioni. Beh, non ha detto niente. Guardi che entra nel panico oggi una media casalinga italiana se le dico cambia una guarnizione. No, a parte una volta, mi scusi Viviana, i rubinetti erano solo di un tipo, massimo due tipi. Oggi già capire da che parte si smonta il rubinetto già è un problema, se non ha lo schemino del rubinetto. Però è una maniera di passare il tempo. No, a me piace poter provare prima da sola. E poi volevo dire che a mio figlio, che ha 11 anni, 4 anni fa gli ho regalato la cassetta degli attrezzi. Brava. La cassetta degli attrezzi. Senta, di elettricità cosa sa fare a casa? No, ecco, elettricità non sa fare niente. Aspetti, cambiare un interruttore di un abat-jour? No, l'elettricità mi fa un po' di paura. Nemmeno una spina? No, lì non ho un'intuizione, non so neanche riconoscere le masse. La lampadina, sì. Sì, le lampadine sì. Già qualcosa. C'è chi per cambiare una lampadina chiama l'elettricista. Guardi, potrei testimoniare. Perché oggi sono dei farettini alogeni. Cambiare la lampadina al faretto alogeno non è proprio semplicissimo, perché un pochino si incolla dentro, non sempre fa contatto, bisogna trovare quella giusta. Però un po' di intuizione, di capire quando può essere successo qualcosa nell'elettrodomestico, e capire. Io penso che si sviluppa un'intuizione. Poi. Sì, a casa mia nonna aggiustava i ferri da stiro, faceva delle sfiammate quando bruciavano le resistenze, delle cose, la sedia elettrica, però fa parte comunque dell'esperienza domestica. Ah sì, penso che ci bisogna avvicinarsi. Altri lavori che lei fa in casa, altri lavori che fa in casa da sola. Ah, beh, di lavori di falegnameria, un po' di lavori di restauro. Falegnameria cosa sa fare? Cosa sa fare? So restaurare, so aggiustare le sedie. Cioè le taglia, sega, incolla, inchioda, mette in forma? Sì. Questo non mi ha detto niente. Usa lo sverniciatore? Sì. Che è un acido terrificante? Sì. E riesce a usarlo senza bruciarsi? Sì, si impara. Ecco, a casa sua oltre a lei, suo marito o qualche altro personaggio che gira per le stanze, è capace a fare queste cose o no, è tutto sulle sue... Mio marito preferisce chiamare qualcun altro, però in questi tempi che sta vedendo di crisi economica vedo che tutti stanno iniziando a fare piccoli lavori nelle proprie case, nelle case degli altri, quindi diventando una piccola professione. Quindi ecco, aggiunge lei un dato a quello che stiamo dicendo, che il bricolage comincia a diventare una necessità, non soltanto una passione. Sì, oltre che una necessità, anche una riscoperta dei valori di... insomma, di potersi arrangiare e non consumare sempre, recuperare le cose vecchie. Va bene, grazie Viviana, in bocca al lupo, recuperi le cose vecchie finché può. Tutto si può inventare, fammi sentire, no tutto, fammi sentire. Vuoi sentire una? La lampadina, la luce ce l'ha. Lampadina, sai fare lampadina tu? Perché non avevo visto la lampadina in vita tua? Io l'ho vista, però la casa è una cosa, tutta e si appiccia la casa, fa? Ci vuole tanto, l'interruttore non ci messo, fai la lampadina, poi il filo, la spina, attenti alla scossa. E tu la sai fa? Sai fare lampadina? C'entra io, ci dice l'elettricista qualsiasi. Ma dice l'elettricista, se non ci sa la lampadina, ci sta. Allora imbecille inventa prima l'elettricista, poi inventa la lampadina. Il paradosso che scopre la realtà, quello che è il punto del dilemma che stiamo noi cogliendo. Troisi e Benigni, lo ricordate, Non ce n'è stra che piangere, vengono proiettati nel Medioevo. E lo dico nella gran fortuna, noi che siamo uomini del XX secolo, nel Medioevo possiamo fare un sacco di cose. Adesso inventiamo le cose che noi già conosciamo e quindi diventiamo dei personaggi rinomati. Poi si rendono conto che la conoscenza reale, anche degli oggetti di uso quotidiano, è molto limitata. Proprio perché non sanno esattamente quale sia l'anima profonda degli oggetti che ogni giorno ci circondano. Io una volta feci una trasmissione dedicata alle motociclette e ricordavo come il più appassionante dei passatempi della mia fanciullezza era chiudersi uno sgabuzzino con gli amici, smontare e rimontare i motori delle motociclette. Sapevamo fare tutto, proprio a occhi chiusi ci bendavamo, aprivamo, cambiavamo le guarnizioni, cambiavamo i dischi della frizione, addirittura con la lima abbassavamo le luci del cilindro, lavoravamo il pistone pensando di dare chissà quali prestazioni. Insomma, la materia dovevamo conoscerla nella sua essenza, il significato, il funzionamento della macchina era il conquistare l'anima di quella macchina. Oggi siamo circondati da una serie di oggetti, dall'interruttore della luce, dalla spina da cambiare, da anche dei meccanismi più semplici delle macchine che abbiamo intorno. Molte volte è un piccolo componente da cambiare, anche quando un computer non funziona più. Improvvisamente ci fermiamo, come se non volessimo violare quella che è l'anima delle macchine che abbiamo attorno. L'unica cosa che si potesse inventare è che acca fanno proprio schifo, ne avessimo bisogno, il gabinetto. Capito? Quello si sa fare. Che è facile, che là è una tazza, può fare pure legno, se necessario, ceramica, ma là poi ci duscia appunto, e là si può cagare una cosa più vicina. Ma pure è un mistero, perché va via l'acqua poi ritorna da sé. È un mistero, là ci saranno sistemi comunicanti, quasi. Ci sia un sistema, che è una lampadina, c'è il sistema, lo sa. Ma là è facile, è meccanico, l'acqua va via e l'altra acqua che gli ho posto. Lo sa fare o non lo sa fare? Sciacquone? No, cioè, per adesso no, si me ci metto, riesco a... Ah, sì, no, per me si può un gabinetto, poi si piglia un secchio d'acqua e soltanto. Butti l'acqua sempre lì. E poi che fuori, no? Devi fare il buco che finisce. Un buco, una ramificazione. Questa sarebbe l'invenzione del gabinetto. Oh, io sono questo, ma io non so ci fa niente, tu sai fare qualcosa, inventi, poi vieni a me e mi dici. Io sono pronto. Sembra facile, vedete lo sciacquone. E come funziona lo sciacquone? Sembrava facile, una volta c'era la cassetta esterna, bastava cambiare il galleggiante, uno ci perdeva un po' di tempo, andava in ferramenta, comprava il galleggiante, saliva su, si attaccava, ci provava, non galleggiava mai al punto giusto, ma alla fine ci usciva. Oggi sono tutte incassate, sono tutte dentro il muro. Levate voi la placca del comando di uno sciacquone, e già levarla è un problema perché di plastica si rompe, e dentro ci avete due affari, quello dell'acqua poca e quello dell'acqua tanta, con tutta una serie di levette, di rimandi. Se anche smontate quello, poi che succede? Poi c'è il muro, poi si entra dentro. Come fa arrivare da quella cosa che ho messo sopra la tazza a dentro? Come si fa a capire qual è il segreto di una vaschetta incassata? Mauro, ciao Gianluca. Lui è riuscito a scoprire il segreto degli sciacquoni a incasso. Allora, guarda, capiti a fagiolo, perché io ho smontato uno sciacquone l'estate scorsa quando tornando... Poi tanto è un'unica marca in tutto il mondo, non la diciamo, ma è un nome infatti, tedesco che tutti conoscono, è l'incubo infatti delle nostre giornate. Perché ogni tanto quella grande rimane bloccata, va tutta però, la notte, bisogna dargli una bottarella. Secondo me, Gianluca, sai qual è il segreto del fare le cose da sé? È trovarsi ad agosto col water che non funziona. Eh sì. Tu non puoi andare al bar per una settimana. No. E allora ti devi ingegnare. Poi anche l'attività relazionale è molto limitata. Diventa, capisci, esatto, diventa molto difficile la convivenza se arriva a sfiorare quelle non puoi lasciare vacanze. Il secchio quelle vacanze in barca dove entri amici con tutti e poi uccideresti tutti i tuoi certo. amici con cui hai condiviso l'intimità. Quindi l'ho fatto, l'ho smontata e ho dato fondo a tutte le risorse che mio padre mi ha profuso durante la mia crescita, ovvero la sua massima definitiva era: se qualcosa si è scassato, prima smonto e poi constato. Io direi no, c'è una fase intermedia. Quando si smonta ci si segni bene dove stavano i pezzi, perché dopo rimontare è un disastro. Se uno è bravo a segnarsi il percorso, poi ci riesce. Bravo, alla fine, come dire, fai di necessità virtù. Però, sinceramente, io in questo devo dire che ho avuto un padre che è stato un caposaldo. Cioè, mio padre ha sempre fatto i lavori di casa e mi ha ovviamente instradato in questa... Ecco, lei ha figli, Mauro? No, per fortuna no, perché non sarei in grado di fare perché la domanda che faccio io è: come riusciamo in qualche maniera, noi che siamo l'ultimo brandello, l'ultimo baluardo, gli ultimi detentori di un sapere esoterico ormai perduto, a trasmettere ai nostri figli, che sono bravissimi con il computer, bravissimi con le macchine di calcolo, bravissimi con l'elettronica, ma che in realtà è molto difficile insegnare loro a prendere un seghetto e riuscire senza morsa a casa, non so, a segare un bullone quando è troppo lungo e rifare la punta del bullone che possa appanarsi nel dado, che guardate che è una cosa non facile, ma quando sei solo a casa la domenica pomeriggio devi per forza imbullinare qualcosa, questo devi fare. Melog 2.0. Porca miseria, ma questa è l'anteriore destra. Anteriore destra, come volevasi dimostrare. Vabbè, adesso comunque, senza farci prendere dallo sconforto, vediamo immediatamente di individuare dov'è la colonnina di emergenza più vicina. Ma cosa c'entra la colonnina, Furio? Ma per il servizio di soccorso ASCI? Ma desveglia di tesoro! Anto Giulio, passa un po' il binocolo a papà. Allora, Magda, fammi una cortesia intanto. Piazzami il triangolo d'emergenza a circa 13-14 metri da qua, d'accordo? Al lavoro, forza! Uno, due, tre, 10, 20, 100, 1000! Ma posto! Serve aiuto, signore? No, grazie. Non c'è bisogno. Mio marito è già andato a chiamare l'ACI. Ma cos'è, una gomma? Sì. E chiama l'ACI per una gomma? Ma gliela rimetto io in 30 secondi. Ma guardi, è meglio di no. Non si disturbi, per piacere. I due estremi rappresentati in bianco, rosso e verdone nella coppia Furio e Magda, lui è un maniaco, compulsivo, nevrastenico, chiama l'ACI anche per cambiare una ruota di un'automobile, e lei rimane sola e trova un fantastico signore che, come un eroe, come un cavaliere, che salva una principessa dal drago, le cambierà la gomma. Devo dire che al suo fascino, chi sa fare questi lavoretti riesce a colpire molto più di quello che è possibile fare con la vena poetica, con l'essere romantico, regalare fiori, con offrire buoni vini, con portare in luoghi meravigliosi. Volete mettere il colpo che fate quando vi togliete la giacca, vi tirate sulle maniche, vi togliete l'orologio, infilate le mani in un lavandino otturato e in pochi secondi lo riportate nella condizione di usabilità, o dimostrate che in un attimo voi prendete in mano un martello, un chiodo, e siete capaci di attaccare quel quadro, o riuscite a rincollare la zampa della sedia rotta? Beh, queste sono cose meravigliose. Infatti Annalisa su Facebook dice: stai trattando un argomento interessantissimo, scarse capacità di Wicoles, un recente trasloco alle spalle e trovare qualcuno in grado di fare certi piccoli lavori senza essere dissanguati è impresa difficilissima. Ecco qui la fase fondamentale. Non si può continuare a pietire aiuto a amanti e fratelli. Non è detto che ti sappiano fare un lavoro decente. Gli amanti non sanno più fare un lavoro decente. Nessuno sa più usare le mani. Nessuno sa più l'uso sapiente degli attrezzi. Quindi, naturalmente, è necessario passare anche ai nostri figli quest'arte sopraffina, raffinata e antica. Poi Anna mi dice che una volta c'era la disciplina di applicazioni tecniche alle scuole medie. Dice: negli anni 60 e 70 c'erano applicazioni tecniche, oggi non ci sono più e quindi per questo non sappiamo più fare niente. Io devo dire onestamente, avendo passato in una scellerata scuola media di paese le mie scuole medie, l'ora di applicazioni tecniche è l'ora in cui il professore entrava, si sedeva sulla sua sedia, accendeva la sigaretta, lo sfumava in classe, apriva il giornale e dicevano: rompete le scatole. E noi avevamo a disposizione delle cassettine di attrezzi che usavamo in maniera del tutto impropria. E una delle battute più frequenti, lo dico con il beneficio del candore di quegli anni, dire: professore, in tonti mi ha tirato una sega, e ci tiravamo veramente gli attrezzi l'uno sull'altro rischiando di farci malissimo. Romeo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Niente, volevo dire che mi ricollego un po' alle applicazioni tecniche perché appunto alla terza media mi ricordo che avevamo applicazioni tecniche e il mio professore era molto invece molto attento e allora abbiamo fatto dei lavori eccezionali e devo dire che allora ho iniziato veramente ad usare gli attrezzi. Ma noi solo i compassi ci facevano, cioè, diciamo i primi tre mesi ci facevano cerchi con squadra e compasso, poi capivamo che non era roba per noi, passavamo alle cassette degli attrezzi, lì succedeva il pandemonio veramente, ma eravamo bestie perché era una scuola di paese, non gliene importava niente a nessuno. Da noi la cassetta degli attrezzi, per gli attrezzi ce la siamo proprio fatta di legno, mi ricordo, tant'è che l'ho regalata a mio padre dopo... Ma nasce prima la cassetta o gli attrezzi? Dove mettevate gli attrezzi mentre non c'avete ancora la cassetta? Usavamo gli attrezzi per fare la cassetta. Esatto. Sì, ma mentre facciate la cassetta, dove stavano gli attrezzi? Ma questo è l'uovo e la gallina, insomma. È posto un problema. No, comunque devo dire che penso che sia innanzitutto una questione culturale e quindi in effetti adesso c'è poco tempo, c'è il mordi e fuggi e non abbiamo tempo per farlo. Si rende conto la varietà? Allora c'erano due tipi di martello, quello grande e quello piccolo, col manico di legno normale, manicaccio di legno. Oggi va a chiedere un martello in ferramenta, le aprono una rastrelliera, c'è di tutto, di gomma, di plastica, a doppia testa, testina rotante, con manico ergonomico, con manico di gomma, con manico di legno. È una cosa, comprare un martello oggi occorre una laurea per capire qual è quello giusto che ti serve. Non parliamo di cacciavite, non parliamo delle chiavi. Parliamo delle chiavi. Io quando mi regalarono per la prima volta a un compleanno un set di chiavi USAG aperte, mi sembrava di avere la felicità in mano. Prendevo tutte le chiavi, mi arrangiavo con una vecchia cagna da idraulico per smontare e rimontare il motorino. Avere le chiavi inglesi fu per me un momento di felicità unica. Beh, ho provato la stessa emozione quando mi sono comprato il primo set di chiavi, devo dire a 17 anni. Perché avevo sempre il motore smontato della moto che dovevo fargli fare quel chilometro all'ora in più e quindi da un punto di vista di meccanica mi appassionava molto, anche se devo dire che la mia passione diciamo è sfociata di più nell'ambito dell'elettronica e ho seguito quel tipo di istruzione. Però devo dire che io a casa mi faccio di tutto, dalla parete di cartongesso. Tant'è come si diceva prima che si chiede un preventivo, ti sparano delle cifre molto elevate, a questo punto magari ci si chiede se non siamo in grado di farlo noi stessi e così ho fatto anche per delle cose anche importanti tipo il massetto di un pavimento o cose di questo genere, cioè fin dove non serve un'attrezzatura particolarmente specifica e professionale penso che la buona volontà e creatività della persona, quindi un po' caratteriale, un po' sì, culturale. Una parete di cartongesso ci vuole molta precisione perché in realtà uno mette le guide, le avvita e poi bisogna essere bravi a stuccare, ma si può fare, non è come costruire un muro. Assolutamente. Si riesce a fare volendo, si riesce a fare. Certo, ci vuole tempo, ci vuole dedizione, bisogna saperlo fare, sennò poi si stacca, cascano i pezzi, viene uno schifo, non è a squadra e tutto. Chi sa farlo è fortunato. Elena. Buongiorno, io volevo dare le mie esperienze, diciamo, lavori, piccoli lavori. Io prima di chiamare un esperto ci metto la mano e magari cambio le guarnizioni, cose varie. Quando proprio non ci riesco chiamo, anche perché poi le spese, quindi riesco a... Quindi lei ne fa una questione economica, non di piacere di riuscire no, a superare... Di piacere, diciamo di... Per me è una sfida, è qualcosa che sì. Costituzionalmente non, nessuno mi costringe a farlo, ma lo faccio. Mi scrive Paola, ho dipinto tutti gli infissi e le camere del bed and breakfast da sola. Bravissima, sarà una cosa meravigliosa. Prego, andiamo avanti. Io veramente ho preso di mia madre. Mia madre... si inventava delle cose, si alza, cambia delle cose, quindi io credo ho preso da lei. Fino a che punto arriva ciò che lei riesce a fare con le sue tenere manine prima di chiamare un supporto concreto? Fino a che sia difficile, io prendo il trapano, attacco delle cose, magari l'elettricità, cambio ogni cosa, fino a che non ci riesco, magari le cose più difficili comincio a chiamare. Mi viene proprio così, volontariamente, non... Ma dipende, se trova una parete difficile, come fa? perché non è mica tanto facile infilare, non è tanto mettere lo stop ma bucare il muro, se c'è la pietra sotto. Io apro, vedo le cose, proprio all'ultimo, quando non ci riesco, chiamo, metto prima la mano. Ci riesce. Elettricità invece? Elettricità, piccoli lavori, attaccare i fili, mettere l'abat-jour, proprio attaccare verso il muro. Che colore è il filo della massa? Vedi, non è pronto. No, poi vabbè. Non è pronto. Nero col nero va, rosso col rosso, insomma. Ma nero e rosso, che c'è un impianto non a norma, i fili sono tre, tanto per cominciare, non sono due. Se è nero e rosso, un impianto non a norma, quindi deve farlo mettere a norma. Deve essere tre fili. Quello della massa è giallo, a striscettine verdi. Deve studiare. Sara? Sì, buongiorno. Lei invece che sa fare? Scusate, io faccio le domande per capire a che punto. Allora, Gianluca, ti spiego, perché io quando dicono che l'acqua tocca, bisogna imparare a nuotare, no? Certo. Io avevo avuto per 5 anni un laboratorio di confezioni e siccome dovevo pagare il signore che mi veniva a sistemare le macchine, il signore che mi cambiava la luce, e mi chiamavano sempre, mi chiedevano il diritto di chiamata, sì, che erano 25 euro solamente per 25.000 lire. Per venire a vedere che era? Solamente perché io lo chiamavo, e poi c'era tutto l'orario che dovevo pagarlo per fare la riparazione. Allora io ho imparato a guardare quello che faceva lui, e così ho imparato a sostituirmi le spine, sapere dov'è la terra, quali sono, perché poi le macchine da cucire, se tu le metti i fili inversi, invece di andare avanti vanno indietro. E poi, siccome avevo questo laboratorio, magari mi cadeva un pezzo di muro, ho imparato a stucare, ho imparato a colorare. Poi, siccome mio marito è un tipo pigro e avevo la bombola del gas, ho imparato a sostituirmi la bombola. Cambiare la bombola non era uno scherzo, guardi, ogni volta si rischiava, no, come disinnescare una bomba d'aereo in esplosa. Certo, bisognava la chiave, la guarnizione. La guarnizione di sughero. E poi come si vedeva se perdeva il gas? Bisognava, cioè, a parte il fatto che quando cambiavi la guarnizione eri quasi sicuro che non perdeva il gas. Sì, però dopo cosa si faceva? Si accendeva? Non è preparata. Non lo so. Si metteva con un fiammifero, con l'accendino, e si sedeva intorno. Se si scoppiava vuol dire che era stata montata male. Fiammifero, ma no, io non ho mai provato. Così si fa. Allora, scrive Lucia, vediamo se lei è d'accordo. Ci scrive Lucia. Caro Nicoletti, abbiamo allevato fichetti che si depilano le sopracciglia. Gli uomini che riparano lavandini non ci sono più, o si fanno pagare 500 euro, eppure loro con le sopracciglia depilate. Questo mi sembra veramente una condanna irreversibile per chi oggi si presta a fare una pallida rivisitazione del duro, rude e virile bricolage che noi soltanto sapevamo fare. Melog 2.0. Oi, questo è un sifone, semplicemente un sifone di quelli che si usa sotto i rubinetti. E il fatto che sia tutto corrugato, tutto così zigrinato, fa uscire questo suono pazzesco. Mi sono procurato un sifone, ho provato a suonarlo e veramente sono rimasto colpito, come se fosse, che ne so, un incontro ravvicinato del terzo tipo. In effetti questi sono i tre armonici che fanno proprio la musica di incontri ravvicinati del terzo tipo. Quindi ragazzi, come vedete, le cose esistono, bisogna solo andarle a scoprire. Voi cercate di farlo e di mandarmi le cose. Abbiamo trovato su YouTube addirittura chi ha trasformato questa esperienza, questa tecnica, in pura poesia. Questa è una sorta di idraulico creativo che riesce a trasformare un sifone in uno strumento musicale e trae dal sifone delle melodie meravigliose. Si può andare anche oltre, naturalmente. Mi scrive Serena: conobbi un uomo che al posto del cellulare caricava il trapano a batteria. Poco simpatico, considerato che non tardava caconeficamente a usarlo. Cioè, usava male il trapano a batteria, però forse è l'uso improprio che non viene richiesto. Il trapano che a batteria va naturalmente ricaricato, se no si ferma proprio sul più bello, e il problema dei trapani a batteria è proprio questo: uno va lì per usarlo, è pronto, c'ha un bel buco da fare, mette la punta e poi gli finiscono le batterie, che fa? Perché non è che funziona a rete, o a batteria o niente, non è che attaccate il filo e funziona, quindi dovete sempre tenere in carica sia il trapano a batteria sia l'avvitatore elettrico, perché sennò nel bel momento in cui vi manca un centimetro di vite da infilare nel muro, da infilare nel coso, si ammoscia l'avvitatore, e che fate? Dovete mettervi a mano, che viene quella bella vescica sul palmo della mano. Mirella. Buongiorno. Lei cosa sa fare? Allora, io so mettere le carte da parato. Questa è una cosa difficilissima, io non ci sono mai riuscito. Ecco, a Allora, io ho imparato perché non c'è stato un papà o una mamma che me l'abbia insegnato, ma ho avuto un'amica alla quale sarò sempre grata, che mi ha aiutato a mettere le carte da parato nella prima delle mie stanze. Prima l'ha tolta quella vecchia, quella è la cosa difficile, pulita bene la parete. Pulita bene la parete, sì, va bene, però insomma non volevamo fare un affresco alla Michelangelo, sia ben chiaro. Insomma, uno si deve anche adattare. Oddio, poi, se mettete la carta, quella gommata un po' grossa, le irregolarità del muro non si vedono, ma se la parete non è rasata è uno schifo. E comunque poi so usare per esempio il seghetto elettrico, ma meglio o meglio non lo so usare. A me ha sempre fatto paura, non l'ho mai avuto io in casa. E va bene, a quanto pare non riesco a trovare una similitudine con lei. Ma lo sa perché? Il trapano, signora, perché ai miei tempi i falegnami facevano pure, erano tutti senza dita. Io mi ricordo i falegnami della mia fanciullezza, mancavano tutte le dita. Era normale, cioè c'erano due dita in tutte le due mani. E mi dicevano sempre i miei, vedi, il falegname si taglia le dita. Quindi non ho mai voluto fare entrare un seghetto elettrico a casa mia. Ho capito. E ne so anche usare, però anche questo male, il trapano. Per quale motivo? Perché io ho riprodotto quello che vedevo. Non ho mai avuto qualcuno che vicino a me mi insegnasse a mettere a fare i fori dritti, ad evitare che la punta del trapano deviasse e così via. Allora io penso c'ha due funzioni il trapano di solito, sa, una percussione e una girabasso. Sì, lo so, no, fin qua ci arrivo. So anche usare lo sverniciatore orbitale, insomma, sono abbastanza avanzata. Quello è abbastanza difficile, sì. Sì, però diciamo tutte cose che so fare bene o no, a seconda se ho avuto un maestro paziente che vicino a me mi abbia insegnato ad usarlo e mi abbia insegnato poi a come dire, evitare quelle difficoltà che si possono ma trovare. Ma ha il suo fascino un uomo che è capace a usare questo tipo di attrezzature? Senta, sarebbe il marito ideale, accetterei addirittura di sposarmi se potessi trovare un idraulico, se dice questo non vi ha nessuno, eccetera, guarda, lei non deve dire questo. Ma non ho più l'età, quindi posso dirlo perché appunto non ho più l'età per far paura a nessuno scapolo, sia ben chiaro. Allora io pensavo che si potrebbe fare una proposta per questo scambio di competenze, visto che non ci sono più i papà, non ci sono più le mamme che possano insegnare queste cose, ma perché non trovare, fare uno scambio, dire io so fare questo e te lo insegno, ma non soltanto teoricamente, in cambio? Mi metto vicino a te e ti faccio montare due, tre chiodi. Prego? E in cambio? E in cambio io ti do la mia competenza. Non so, io so fare qualche cosa. Io per esempio faccio di questi piccoli scambi perché sono bravissima a scrivere lettere di protesta ufficiali, di richiesta nella burocrazia e così via. E quindi ci sono tante amiche. Quindi diciamo che propone quello che propone la nostra ascoltatrice, è una sorta di scambio di competenza. Omini di casa in ascolto, voi che siete bravi a usare ogni tipo di utensile, siete disposti a insegnarlo a tante signore come Mirella che in cambio vi darebbero la loro capacità di essere amanuensi vergatrici di lettere di protesta? Può essere che questa cosa funzioni. Donato. Buongiorno. Lei non sa fare niente? Non so fare niente. Io ho 59 anni, è un quindi disastro. Dovrei essere della generazione tutto sapiens. Avevo un padre geniale da questo punto di vista, pur non essendo un artigiano e non essendo un esperto. Mi ricordo che una sera c'era Campanile Sera con Mike Buongiorno e la televisione non funzionava. Lui, quelle vecchie televisioni, dottore, si ricorda con, certo, con l'alimentatore esterno. Alimentatore interno, esterno. Cassoni incredibili. E tanto ha fatto che dopo qualche minuto il televisore ha ripreso e noi ci siamo guardati la trasmissione. Sì, una volta basta cambiare delle valvole, c'erano delle grosse valvolone. Però sa, per noi ragazzi a casa. Però non ha mai passato, diciamo, questa competenza non gliel'ha mai passata. Non me l'ha mai passata. Quindi lei non sa far nulla. E dopo aver sentito la trasmissione di questa mattina e gli intervenuti che tra scienza della tecnica e la scuola e che tutti sanno usare trapani e compagnia bella, a parte un po' di disistima personale, mi è venuto il desiderio di dirle che io non so nemmeno una lampadina. Non sa nemmeno svitare una lampadina? No, questo è un po' l'estremo della... Ma un faretto alogeno lo sa cambiare? Prego? Un faretto alogeno? No. Vede, fretta logio mica è facile. No. Uno si rischia l'ustione se non sta attento. E d'altra parte io sono uno di quelli che fruiscono invece dei tecnici, ognuno lo so. Il proprio mestiere. Mi dispiace per lei, veramente la sua una vita dura, però ho compassione e considerazione della sua situazione. Stefano. Sì, salve, buongiorno. Niente, l'idea mia era di portare questa idea non nuova, importandola un po' anche dall'America, dal handyman americano a livello di via o di quartiere. Perché io ho avuto la fortuna con mio padre, mi ha insegnato a fare molte cose, quindi a casa me la cavo un po' su tutto. Ovviamente mi sfruttano parenti, conoscenti, eccetera, eccetera, che io faccio a livello di piacere e di cortesia. Però così facendo, però qualcuno potrebbe anche proporsi a fare le cose a pagamento, di aiutare in casa, attaccare il quadro, anche perché non verrà mai un muratore a casa tua a fare un decimetro quadro di buco. Sì, nel ma muro, se noi ci improvvisiamo, ci improvvisiamo bricoleur a pagamento, cambia il gusto. Il senso di oggi è fare delle cose per se stessi, in totale gratuità, per il piacere di sfidare le professioni che in realtà sembrano esotericamente uniche, conservatrici di alcuni segreti. Mettere un chiodo al muro è semplicissimo, usare un trapano, un martello, una tenaglia o altri utensili è ancora più semplice. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Alessandro Chiappini, a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.